Domenica d'autunno, la brezza è primavera, l'oro dei capelli è polline. Le lettere del vento sono fogli di sorriso, scrivimi una dedica nel sole. Segui l'aria e vola, vola via. Ci cembali. Nel sogno l'acquarello dipinge il tuo vestito, salutami leggera nell'addio. Seta nuota attorno, coriandoli negli occhi, il bianco della tela svela. Segui e vola, vola via. Mani nei cieli, acqua. Domenica d'autunno, la brezza è primavera, l'oro dei capelli è polline.